Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E diciamolo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, non ci sono veramente più le mezze stagioni. Questo agosto, ditemi se avete mai vissuto un agosto così strampalato come questo. Doveva essere appunto come tutti i mesi di agosto, insomma, come ogni anno. No, tutto si ferma, tutto è placido. E invece che cosa non è successo? Quindi, da un punto di vista meteorologico, chi è andato al mare lo sa, in Italia, anche diciamo nel Mediterraneo, ha trovato un mare piuttosto freschino. Qualcuno ha dormito anche col piumino, no? E poi adesso invece in questi ultimi giorni sta arrivando questo caldo rovente. E poi per quanto riguarda invece la almeno apparente calma che dovrebbe dominare un po', diciamo, tutto il contesto politico, finanziario, eccetera, eccetera, che cosa non è successo? Dicevamo, dalle borse al terremoto a New York, ai subbugli violenti a Londra, alla manovra economica in Italia. È stato veramente, diciamo, un agosto da non ci sono più le mezze stagioni. Quindi eccomi con voi a riconfermarlo e anche a ritrovarci con la formula classica di non ci sono più le mezze stagioni. Quindi, adesso che vi siete riposati con delle puntate un po' più estive, ritorniamo a far arrovellare i neuroni e a concentrarci sulle notizie della settimana. Qual è la notizia che più vi ha colpito in questi giorni? La frase, la dichiarazione? Tra l'altro vi avverto che mi ero fatta, come ogni settimana, tanti appunti, anche delle frasi, delle dichiarazioni, eccetera, perché è vero che vado, diciamo, tassativamente a braccio, però insomma, almeno qualche spunto, qualcosa, ogni tanto allungare l'occhio su qualche punto, invece sono spariti tutti. Un folletto diabolico del computer, mai fidarsi dei computer fino in fondo, meglio la carta straccia, ecco. E qual è quindi la vostra notizia? 800 24 00 24. Oggi tra l'altro giorno di controesodo, come si dice, che sarebbe scorretto, insomma ormai questa è passata da tempo questa espressione. Controesodo, ci sono circa 8 milioni almeno, se non di più, di italiani che stanno tristemente, possiamo dire, tornando verso la propria casa, il proprio lavoro. Sicuramente non saranno felici, ma possono mettersi tranquillamente alla guida ascoltando, per l'appunto non ci sono più le mezze stagioni, e chiamando il numero 800 24 00 24 per esprimere le proprie opinioni liberamente sui fatti della settimana. Ma naturalmente c'è sempre una spalla, una prestigiosa spalla che chiamo ogni sabato differente, e l'opinionista estemporaneo, così lo chiamo, di oggi è, signore e signori, Michele Ainis. Buongiorno. Buongiorno Michele, vacanze? Vacanze, beh, sono un ricordo ormai. Un ricordo lontano, sei uno stacanovista poi tu. Sei uno di quegli uomini che preferisce sempre essere al lavoro piuttosto che su una spiaggia, a cavallo, giocare a tennis, fare una passeggiata con un amico, con i figli che... No vabbè, insomma, una cosa non esclude l'altra, però sì, insomma, per quanto mi riguarda scrivere è un po' una forma di neurosi. Ecco. Michele è costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera, ha scritto un'infinità di saggi ed è docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Teramo, quindi potete immaginare quanto sia ciapato, si dice a Milano, impegnato. E tra l'altro vedevo, Michele, sul il numero dell'Espresso che è uscito questa settimana ieri, ma quale antipolitica, questa è ribellione, a pagina 53 dell'Espresso. Sei tornato quindi su, diciamo, uno degli argomenti che ha dominato quest'estate, che doveva essere tranquilla, ma tra tutti i rivolgimenti è stato un tema che sicuramente ha molto stimolato il dibattito, se così possiamo dire, se non l'indignazione, ecco. Beh sì, mi pare che questo sia un fatto evidente, c'è una corrente di opinione pubblica che non ne può più di subire sacrifici che poi sono in parte dovuti a una crisi economica mondiale, in parte ai governi sciagurati, mica solo questo, insomma, che hanno danneggiato il paese, e che chiede, io credo che chieda, un rinnovo di classe dirigente, chiede. Ma secondo te è possibile, Michele, al di là che lo chiedono? Tu tra l'altro dici una cosa giusta, no? Si è continuato a parlare di demagogia che alimenta l'antipolitica, questo aggrapparsi facilmente e banalmente ai privilegi dei parlamentari, ma in realtà la politica costa. Però tu dici giustamente, non è che la gente, il popolo indignato ce l'ha con la politica in sé, dici, ma non è indignato contro gli abusi della casta, non odia la politica, né piuttosto un amante deluso, no? Di chi aveva creduto tanto e per l'appunto come in un rapporto e poi si ritrova così, insomma, un po' in braghe di tela? Sì, insomma, io faccio un po' questa diagnosi. Io credo che noi negli ultimi, diciamo così, 10 anni, noi italiani, ci siamo un po', abbiamo delegato la soluzione dei problemi a chi ci governa, come probabilmente è fisiologico in ogni democrazia. Abbiamo lasciato fare e adesso però, avendo visto che ne sono venuti danni e disastri, c'è una voglia di riprendere in mano il timone. Come riprenderlo? Intanto esercitando quella quota di sovranità che ci spetta, e il successo dei 4 referendum a giugno mi sembra eloquente, ha interrotto un lungo digiuno referendario. Chiedendo conto, diciamo, perché dove c'è potere lì deve esserci responsabilità. Questa è una regola aurea delle democrazie, e le democrazie in fondo fanno questo tentativo. Non si può eliminare il potere, non può esistere, non è mai esistita una società senza potere, senza potere politico e senza distinzione tra chi governa e chi viene governato. Però c'è bisogno di evitare che il potere poi ti faccia troppo male, devi un po' limargli le unghie. Ecco, ma questo limare le unghie, no? Uno deve averla anche la lima, sapere come usarla. Si diceva prima, c'è questa aspirazione, questo auspicare un rinnovo della classe dirigente, ma come può avvenire? Non è che passi con l'aspirapolvere e poi no, come si fa? Ma intanto sta avvenendo, perché le amministrative... tu hai parlato quindi sì delle ultime elezioni e dei referendum. Sì, le ultime elezioni amministrative hanno fatto banco gli outsider, che hanno quindi, diciamo, si sono imposti su pezzi di vecchia classe dirigente. Quindi tu citi Pisapia e De Magistris soprattutto. Ecco, però a Cagliari ha vinto, c'è un sindaco che ha 35 anni e ce n'è uno giovane anche a Firenze, quindi in parte sta avvenendo. E sono anche molto popolari questi nuovi politici che si vanno affermando. In parte, quando avremo di nuovo la scheda elettorale in mano, probabilmente gli italiani premieranno i vecchi partiti che avranno saputo rinnovarsi in modo credibile, non candidando una bella ragazza o un bell'indossatore, insomma, in lista a fare la bella statuina, ma con dei ruoli di primo piano, oppure se ne nasceranno delle nuove proposte politiche. Michele, ricordo a chi sta ascoltando, che sia in viaggio, che stia stirando, stia mangiando, alcune delle notizie dell'ultima settimana, quindi in parte questa dell'antipolitica, dei costi della casta, eccetera, eccetera, se ne continua a parlare, continua a essere purtroppo un argomento di grande attualità, e anche per fortuna, nel senso che c'è consapevolezza, bisogna poi vedere qual è l'evolversi della situazione. Poi certamente la svolta della guerra in Libia, anche se io adesso guardo costantemente le agenzie dell'ANSA, non ho molta fiducia che si troverà in tempi brevi, secondo me neanche in tempi lunghi Gheddafi, ma probabilmente mi sbaglio. E poi la manovra economica che ha tenuto banco in Italia. L'uragano Irene, leggevo proprio una notizia di pochi istanti fa, l'uragano si è abbattuto sulla North Carolina con il proprio centro nell'area di Cape Luke. E sapete che deve arrivare anche a New York nel pomeriggio, quindi sono tutti allertati, un'evacuazione di almeno 300.000 persone, una cosa che è veramente unica nella storia, credo che si debba andare proprio all'inizio, inizio Novecento. Poi l'addio di Jobs a Apple, anche questa è una notizia grossa di questa settimana, lo sciopero dei calciatori, poverini, poi Bernanke, il capo della Banca Centrale Americana, che ha detto la ripresa è un po' a rischio, non è che si vada tanto bene, quindi continua questa grande crisi internazionale. E poi la vicenda delle tangenti a Sesto San Giovanni il giudizio poi dei PM su Penati, i suoi reati sono andati in prescrizione, anche se, e poi mi dirai cosa ne pensi dopo, Michele Ainis, dicevano i PM, l'esponente PD si comportò come un delinquente matricolato, hanno usato proprio questa espressione. Donne uccise anche questa settimana, non mancano naturalmente, anche una, se non sbaglio, a Firenze, quella foto che avranno visto in molti con il, diciamo, chiamiamolo fidanzato, ex fidanzato, a cavalcioni su di lei in mezzo alla strada con il pugnale, la tiene per i capelli, il pugnale sotto la gola, e sono veramente delle immagini lusinghiere di come dello stato di civiltà anche del nostro paese. E poi disordini in vari paesi, anche in Cile per esempio, si sta un po' rimuovendo il Cile. Ma sentiamo subito all'800 24 0024 Francesco da Treviso. Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno, caro Francesco. Quello che mi ha meravigliato, sì, è che ieri un TG abbia aperto con la notizia che non giocheranno a calcio oggi, credo. Sì, oggi e domani. I giocatori. Sei preoccupato? Con tutte le notizie che lei ha elencato, sì, che avrebbero potuto aprire un TG. È una cosa che riesce difficile da capire. Poi quello che mi meraviglia è che davanti all'indignazione nei confronti della casta, di tutto quello di cui si parli, non abbia mai sentito nessuno che si indigni davanti agli stipendi dei calciatori. Io sono molto... Guarda Francesco, hai beccato proprio quella giusta. Io sono estremamente indignata da anni sui stipendi dei calciatori e sui calciatori stessi. Adesso mi attirerò, diciamo, gli strali di molti, però io è proprio una categoria che mal sopporto, se si può dire. E approfitto, visto che ho un'interlocutrice con intelligenza sopra la media. Ma io mi fido di quello che dici, sì, Francesco. Cosa pensa dell'entrata in politica del signor Montezemolo, che io auspico, perché credo che se Montezemolo dovesse entrare in politica con una lista sua non avrebbe difficoltà a prendere un 15%. Speriamo che il signor Montezemolo si butti. Lei cosa pensa a questo proposito? Cosa penso io, Francesco? Intanto ti dico, a proposito dell'apertura sullo sciopero dei calciatori, si può leggere in due modi. Da una parte dare importanza appunto a faccende, come si può dire, di costume e di società che forse potrebbero avere l'ultimo titolo. Dall'altra però è anche un sbattere in faccia alla gente, giustamente, e con tutti i problemi che abbiamo, guardate che cosa succede, guardate chi è che alla fine fa sciopero in questo paese. Quindi si può leggere in questi due modi, non voglio mettere l'accento su un aspetto o sull'altro. Per quanto riguarda Montezemolo, io direi, se vuole scendere in politica, visto che pare che si annunci da mesi, che lo faccia e si capisca anche chiaramente quali sono le idee, le proposte, lo schieramento al quale più si avvicina. Secondo me è assolutamente legittimo, credo che sia un uomo di intelligenza piuttosto superiore, poi si può condividere o no il suo percorso professionale, di vita, le sue idee, eccetera. Mi sembra che possa essere una buona occasione. Secondo te, Michele Ainis? Io dunque intanto devo dichiarare un conflitto di interessi, però, perché io faccio parte del direttivo di Italia Futura, che non è un'associazione politica, ma ecco, il movimento di effettivamente di Montezemolo, che è presieduta da Montezemolo, sì. Non so cosa accadrà, però ripeto, io credo che ci sia bisogno di proposte nuove che passino anche attraverso la credibilità di chi, ecco, però questa è un'occasione importante, visto che tu fai parte del direttivo. Due cose vorrei sapere: se puoi da una parte sintetizzare quale potrebbe essere il programma, i punti principali, e dall'altro, visto che comunque ci si interroga sempre su questa cosa, anche se si dice sempre che ormai la destra e la sinistra non esistono, verso dove pende, dove è orientato questo momento? Ma io proprio su Italia Futura, sul sito, avevo firmato un post, una cosa di 20 righe, dicendo però una cosa di cui sono convinto da tempo: destra e sinistra sono delle categorie superate, insomma ci sono delle parole che oggi tutti vorremmo pronunciare così a bocca larga. Però diciamo che una costellazione di valori di riferimento a grandi linee un po' discostati c'è sempre, no? È vero che alcune questioni si mischiano a volte, però... Però se noi parliamo di merito, io per esempio, no? Probabilmente la vera tragedia dell'Italia che ci sono, io poi lo vedo ogni volta che mi trovo ad avere un pubblico in una piazza, in una città italiana, dei ragazzi che sono bravi, che sono bravissimi, anche quelli che studiano con me all'università, non sono tutti bravi, ma quelli bravi non riescono ad emergere, perché in Italia devi essere... Siamo d'accordo, assolutamente d'accordo su questo. Allora, questa cosa qui del merito, che significa eguaglianza nei punti di partenza, e poi chi ha più gambe è che arrivi primo, così è la vita ed è giusto che sia così, è diverso di sinistra, io non lo so, ma nemmeno mi interessa tanto, l'eguaglianza delle chance, la legalità è di destra o di sinistra, l'efficienza, noi abbiamo un paese che è stato amministrato in modo pessimo, tant'è vero che la capacità di produrre da parte dell'azienda Italia è stata la peggiore in Europa nel decennio 2001-2010, E anche questa non è importante. No, su questo hai ragione. Sai che cosa forse rimane ancora un po' come discrimine, forse, a volte anche invece anche qui un po' si sovrappongono le parti. Per esempio sulle questioni etiche sensibili, no? Dal testamento biologico alle unioni di fatto, le unioni gay, cosa mi viene in mente ancora? Ci sono varie questioni che ogni tanto... C'è una destra liberale e c'è una sinistra conservatrice. In realtà, se andiamo a vedere le posizioni dei partiti che stanno qui sulla scena, tu poi stai parlando con assistita. Con un, come si dice, laicista. Ho scritto un libro che si chiama Chiesa Padrona 2 anni fa. Sì, sì, sì, lo ricordo bene. Ecco, però di nuovo anche questa questione che riguarda in realtà l'eguaglianza delle confessioni religiose, l'eguaglianza tra chi ha una fede, chi ne ha un'altra e chi non ne ha nessuna, che riguarda la libertà degli individui rispetto a un'etica di Stato che mi dice se io posso nascere, posso morire, con chi devo sposarmi, insomma. Queste sono questioni importanti, no? Di nuovo, è difficile collocarla secondo le categorie politiche che hanno dominato l'Ottocento e il Novecento. Norberto Bobbio diceva che la differenza tra destra e sinistra è che la destra tende più sul valore della libertà e la sinistra di più sul valore dell'eguaglianza. Noi abbiamo bisogno di entrambe le cose, quindi una giusta miscela. Benissimo, grazie Michele, cioè delucidato su questo aspetto. Ci sono tra poco Andrea da Bologna, c'è Claudio da Forlì, altre ascoltatrici e ascoltatori. Il numero verde è 800 24 00 24, ma Valeria Bernardi alla parte tecnica mi ricorda che c'è la viabilità, è vero? Sì. Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre Roberta Giordano con voi e riprendiamo la formula tradizionale. Oggi non ci sono più le mezze stagioni, concentriamoci sui fatti della settimana che sono sempre tantissimi, e questo è stato proprio, anzi, un agosto congestionato dai fatti. Mio opinionista estemporaneo di oggi è Michele Ainis, costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Teramo. Ha scritto anche un sacco di saggi e commentavamo all'inizio anche il suo articolo che c'è questa settimana sull'Espresso. Ma sentiamo sempre al numero verde le vostre telefonate, le vostre opinioni, 800 24 00 24, Andrea da Bologna. Buongiorno. Buongiorno Andrea, tutti pimpanti oggi, mi fa piacere. Ah beh no, sono pimpante, ma semplicemente per la mia natura di ottimista. Bene. Sono un indignato di 54 anni. Nonostante l'indignazione sei ottimista, tuttavia. Beh sì, certo, perché pensa, io sono disoccupato dal marzo del 2010, però non sono ancora la canna del gas, ma quasi, diciamo, però sono ottimista, cosa vuoi che ti dica? Meglio di così, Andrea, che ti devo dire, se riesci ad avere questo spirito, diciamo che sicuramente troverai delle soluzioni. Allora, intanto sì. Un saluto grandissimo anche al signor Michele Ainis, che ammiro soprattutto per la sua flemmatica, ma anche per quello che dice, ovviamente, lo ricordo molto bene, non solo per gli articoli che scrive sul Corriere della Sera, che spesso li leggo, ma anche perché guardo molti dibattiti televisivi e l'ho visto parecchie volte, che lui non dice mai niente finché non tocca il proprio turno e immagino che lui possa anche pungere molto la pelle, però dopo lui parla con la sua flemma e chiarisce tutto e tutti. Un complimento al signor Michele Ainis. Un'apologia. Andrea, scusa, volevi dire qualcosa, Michele? Giusto una parola? No. Michele, dicevo. Sì, no, sono un po' arrossito, ma non si sente. Non si vede. Andrea, quindi l'hai fatto arrossire. Quindi la tua notizia della settimana, diciamo. Allora, è recentissima. Io oggi ho sentito quello che diceva il ministro Tremonti al meeting di Rimini. Sugli Eurobond? Esatto, praticamente come se fosse la formula magica, e probabilmente lo è, io lo ritengo, io dico intanto che io sono sempre stato nell'area di centrosinistra, però lo ritengo una persona molto intelligente, il ministro Tremonti, e praticamente ha smentito tutto quello che si è detto questa settimana a tutti gli altri politici che a destra, a sinistra, eccetera, di qua, di su, di giù, praticamente dice... che forse riassume quello che si è detto ieri, si è sentito oggi, che forse ha avuto solo 2 minuti di telefonata con il primo ministro Berlusconi, 2 minuti per dire... Non mi hanno informata, sì, sui minuti. Mi hanno detto, sembrerebbe che la notizia sia che sono tutti dilettanti, io sono solo l'unico professore, solo io... Tremonti, vabbè, questo lo dice da sempre. Ecco, diciamo. Sì, certo. Sì. Allora, che cos'è la nostra classe politica se non parlano tra loro, se tutto questo appare oggi come, visto che sono, è da Calazzo che non parlava il signor Tremonti, e adesso oggi dice ma probabilmente con gli Eurobond risolviamo tutto perché siamo ancora in un... No, non dice che risolviamo tutto, dice l'unica via per il futuro, questo è il suo punto di vista. Sì, perché siamo in un videogame finanziario e quindi siamo ancora in piena crisi e sembra che adesso proprio non ne veniamo più fuori qui, perché se siamo in un videogame, ma chi è che vince? Come? Proprio un ottimista come te dice che non veniamo più fuori. Andrea, sentiamo Michele Ainis, pur non essendo un economista, cosa ne pensi Michele? Grazie Andrea. Ma davvero non posso, diciamo, inerpicarmi su queste discussioni perché mi professo incompetente, insomma, sugli Eurobond significherebbe Tremonti, di Tremonti cosa pensi ultimamente, sai, tutte le storie che sono avvenute, le tensioni politiche, ma anche le sue vicende, diciamo, più private, se così si può dire, in realtà poi private non sono. Beh, certamente i guai che riguardano giudiziari, che riguardano il suo uomo di fiducia, non possono non stendere un'ombra anche sulla sua figura pubblica, poi insomma vedremo cosa la magistratura alla fine dirà. Lui ha avuto il merito di diciamo placare un po' gli appetiti dei vari ministri durante i primi 2 anni di governo, evitando che la spesa pubblica continuasse ad alimentarsi. Il demerito, io credo, però, di non aver avviato delle riforme liberali, e quando ci ha provato, dalla riforma delle professioni ad altro, ha poi fatto un passo indietro, perché questa è un po' anche la dannazione di questo paese. Gli interessi corporativi e coalizzati sono sempre più forti del governo centrale. Questa manovra, che intanto sta provocando divisioni anche all'interno della maggioranza e poi in tutto l'apparato pubblico, io per esempio sono saltato sulla sedia quando ho visto che le 29 province... Sì, adesso dovrebbero... Berlusconi ha detto o spariscono tutte o nessuna, che mi sembra un po' un modo per dire alla fine restiamo come siamo, no, poi magari mi sbaglio. Finirà così, ma intanto questi 29... candidati alla ghigliottina hanno cominciato a dire ma qui sono le grandi province che determinano sprechi, hanno cominciato, per esempio l'ha fatto La Spezia contro Genova, Rieti contro Roma, una sorta di cannibalismo provinciale. Si può dire molto provinciale. Allora, tra poco ci sono altri ascoltatori al numero 800 24 00 24, c'è Giorgio De Luca che ha ormai alle orecchie incandescenti, ma io direi riprendiamo anche il nostro collegamento unico al mondo con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. E anche ad agosto, guardando qui da Marte, giù verso il globo terracqueo, si è avuta la chiara conferma di quanto diceva Jimmy Fontana quando affermava che gira il mondo, gira nello spazio senza fine, e non si è fermato mai un momento, nemmeno ad agosto. Ed effettivamente, in quello che doveva essere un mese assolato, sonnecchiante, è successo di tutto. Borse giù, valigie su, parlamentari che mangiano il filetto in crosta alla Marina a 2 euro, caste e costi, parole sboccate. Ed è tutto un continuo manovrare, non solo in terra libica, ma pure in quella italica, dove sussiste la manovra per antonomasia. O voi pensate forse che vi sia in un altro angolo del pianeta una manovra più nominata e più manovrata di quella italica? E manovra che ti manovra, qui e là qualcuno a un certo punto si è indignato e non ci ha visto proprio più. Ed ecco dunque lo sciopero. Sì, lo sciopero dei calciatori. I tiratori di pallone in braghette si sentono effettivamente troppo vessati e poco tutelati, indi per cui hanno deciso di incrociare le braccia, anzi più esattamente le gambe. Una sciagura per molti ben peggiore dell'uragano Irene. Insomma, non vi sono più certezze, tranne che bisogna stringere la cinghia. E infatti il Presidente del Consiglio ultimamente è andato giù solo di tisane, e la mancanza di certezze, diciamolo, crea confusione. A Besigna, per esempio, vicino all'Aquila, due orsi, credendosi due bipedi qualunque, vanno ogni giorno a spasso, pensate, tranquillamente per il corso principale. Poco ci manca che entrino in qualche negozio di intimo, che effettivamente ogni 20 metri ne trovate uno. Il senatore invece si rompe, non si capisce come, il gomito in casa mentre cerca di prendere i sigari, e comprende una volta per tutte che il fumo fa male. A Rimini non si sa più se a salvare i bagnanti annaspanti devono essere i marinai di salvataggio o i bagnini, e si intravede un altro sciopero. Insomma, l'unica cosa chiara, l'unica certezza che è giunta a conforto in questo bislacco scampolo d'estate è attenzione che la bisessualità esiste. Ebbene sì, lo comprova una ricerca appena terminata in questi giorni dall'Università di Chicago, ma è la scoperta dell'acqua calda, potrebbe obiettare qualcuno, ma non lo si sa almeno della bisessualità dall'antica Grecia. Sì, ma ogni tanto vanno fatte delle ricerche su cose che già si sanno, così è la prova provata. In realtà, però, in Italia, pensate, esisteva già nel 1978 un documento sonoro che ne attestava l'esistenza. E tu, e noi, e lei, tra noi, vorrei, non so, che lei, no. Le mani, le sue, pensiero stupendo. Eccoci qui di nuovo sulla Terra e quindi riprendiamo un po' i nostri confronti telefonici 800 24 0024. C'è Claudio da Forlì, grazie della pazienza Claudio. Prego, grazie a voi per avermi contattato. Il tema che volevo proporre, sì, è, a parte lo spunto della notizia della settimana o la non notizia, sì, mi nasce invece dall'osservazione, dal commento del professore Michele Anais. Ainis, mi scusi, il quale naturalmente sottolinea l'aspetto, così, come dire, della partecipazione della gente alla protesta contro la classe politica. La riflessione che volevo proporre, sì, nasce da una non notizia, ovvero da una notizia che invece è stata secondo me troppo trascurata perché altre hanno catalizzato l'attenzione della pubblica opinione. Mi riferisco alle propaggini del tumore, alle metastasi. Si dice che la politica sia la responsabile di tutto quello che ci sta accadendo o perlomeno che abbia la maggior parte delle responsabilità, ma si trascura il fatto, a mio avviso, sì, che la pubblica amministrazione nell'espressione verticistica, cioè il gran commis dello Stato, altro non sono che le propaggini di questo tumore. Sì, la politica ha le sue responsabilità, ma tutti tacciamo su quello che avviene nella pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è, nell'espressione verticistica, il braccio armato della politica. E arriva la non notizia. Il prefetto, che dovrebbe rappresentare il governo nella provincia, dovrebbe essere appunto l'espressione massima della feticità, della rappresentatività, eccetera. Noi abbiamo avuto il caso in una provincia pugliese di una prefettura, quella di Bari, che è rimasta scoperta per mesi e mesi perché a metà percorso uno dei ministri aveva annunciato che il prossimo prefetto sarebbe stato il dottor Tizio, facendo indignare l'altro prefetto, cioè, che invece l'altro ministro, che invece sponsorizzava un altro prefetto. Quindi noi abbiamo assistito indifferenti al mercato delle vacche, così si esprime un deputato europeo, praticamente senza nessun ritegno si è palesemente offerta alla pubblica opinione una situazione scandalosa, cioè che i prefetti sono l'espressione di un partito, di un orientamento. Beh, questa non mi sembra una novità in effetti, Claudio. Ti ringrazio di questo sfogo, scusa, mi si avverte che dobbiamo chiudere per un'altra pausa, ma ci riprendiamo tra pochissimo. E chiedo tra l'altro a Michele Ainis di rispondere dopo a Claudio di cosa pensa della pubblica amministrazione, e anche poi mi piacerebbe sapere da lui e dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori cosa pensano invece dello sciopero dei calciatori. Poi ci sono Noemi, poi c'è Annibale. 800 24 00 24. Non ci sono più le mezze stagioni. E proseguiamo il nostro cammino anche oggi, come tutti i sabati, dalle 14 alle 15. Roberto Giordano con voi. Vi ricordo, ogni tanto me ne dimentico di dirvelo, che c'è la pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni. Anzi, tra poco dovrei dare spazio ai tanti facebookiani che si sono confrontati con le loro opinioni anche questa settimana. Quindi dovete cercare, se cercate la pagina Facebook, Roberto Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. Poi diamo un po' di attenzione. Vi ricordo anche che potete riascoltare la puntata su radio24.it oppure sulla stessa pagina Facebook. Darei spazio, intanto vi ricordo sempre che il mio opinionista estemporaneo di oggi è il costituzionalista ed editorialista del Corriere della Sera Michele Ainis. Vorrei dare però la parola all'800 24 00 24 a Noemi da Mantova. Prego Noemi. Sì, sì, pronto? Pronto? Mi sentite? Benissimo. Sì. Benissimo, allora sentami, scusi, io mi assumo, dico subito, premetto che mi assumo tutte le responsabilità di ciò che sto dicendo. Stai dicendo delle cose gravi, molto gravi, Noemi, passibili, ma no, di querela? Cioè, no, fanno parte del nostro paese, intendo dire, no? Allora, io ero nel Partito Liberale negli anni 70-80. Sì. Allora dico questo, l'onorevole Malagodi aveva determinato, siccome era bancario prima di essere politico, che nel 1983 avevamo 1 miliardi di debito pubblico, perché aveva fatto i conti. Mm. Il nostro debito pubblico veniva falsificato, questa è una cosa gravissima, però la dico perché sono stufa anch'io, essendo ormai anziana, di sentire tutte queste stupidaggini, le quali hanno spate, perché chiaramente non sapendo e non avendo avuto queste cose voi giovani, di toccato con noi mano giovani, quello che c'era allora... Ma includi anche me, quindi... Mi perdoni? Stai includendo anche me? Non lo so, te so quanti lei anni abbia. No, sì, sono giovane, vuol dire che non ne capiamo nulla. Ne ho 63, per cui guardi, ragazzi. Allora, io all'inizio dicevo, guardate, dico, il senatore Margot dice questo, e tutti dicevano, ma per carità, fantapolitica. No, fantapolitica. Il bilancio dello Stato veniva scientificamente camuffato dalla classe politica dell'epoca, perché c'era un consociativismo pazzesco, cioè DC e PC erano completamente d'accordo, anche perché il PC non sarebbe mai potuto andare al governo perché la Russia non lo voleva, questo non si dice mai, ma il PC, e quindi la lotta per, e quindi loro si aggiustavano tra di loro. Non è una sciocchezza quella che sto dicendo, guardate. No, ma ho capito Noemi, ma rapportato a quello che succede oggi, quindi oggi, qual è il nesso? Questo è il cascame, quello che succede oggi è il cascame di quello che succedeva ieri. Cioè, se prima era una porcheria, oggi è la schiuma che arriva a galla, perché chiaramente se l'albero, le radici vengono storte, poi i rami vengono storti, per cui oggi è così. Quindi si continua a nascondersi dietro un dito che dall'epoca, quando finì la guerra, che De Gasperi, quando gli americani offrirono il denaro, disse sì, poco per volta, perché gli italiani non sono un paese diciamo industrializzato, sono un paese contadino. Parli del piano Marshall. Ecco, il piano Marshall. Allora De Gasperi venne mandato a casa, che dopo morì naturalmente, perché De Gasperi era un uomo, oltretutto è stato nel Parlamento austriaco, poi un uomo di grande rigore. Arrivarono gli Andreotti, arrivarono tutti questi, no, i soldi subito. Lo sa che addirittura si sono presi i soldi che gli americani avevano dato alle persone che erano state portate è molto interessante, Noemi, però qui rischiamo di fare un percorso lunghissimo, no? di andare all'indietro nel tempo quindi tu vuoi dire, Noemi, era una zozzeria prima e quindi adesso non potrebbe essere diversamente. Michele, hai qualcosa da commentare su quanto diceva Noemi? Grazie, Noemi. Ma diciamo quella stagione consociativa è finita. È vero che durante il periodo del consociativismo, in cui il Partito Comunista non era al governo, però per un momento fu nell'orbita del governo, il governo della non sfiducia, fu un governo Andreotti in cui il PC non votava a favore ma nemmeno contro, ma insomma durante gli anni 70 c'era una cogestione della cosa pubblica da parte dei due grandi partiti che insieme poi facevano il 70% dei voti, insomma il Partito Liberale faceva il 2%, e questo però ha portato a una potere e responsabilità. Quando il potere è così distribuito da non essere riconoscibile, diventa irresponsabile, e questa irresponsabilità ha prodotto debito. Senti, invece leggevo prima di sentire tra pochissimo Annibale, un'agenzia di poco fa, in cui c'è il sindaco di Berlino che parla, si chiama Klaus Wowereit, e ha detto di avere grande comprensione, dice, per le preannunciate proteste contro la morale sessuale della Chiesa Cattolica in vista della visita di Papa Benedetto XVI, che sarà in Germania dal 22 al 25 settembre. Dice il sindaco di Berlino, lo capisco questa protesta, e va anche bene che i cittadini usino la visita papale per far notare che la Chiesa Cattolica, con i suoi insegnamenti, sostiene delle tesi che appartengono ai secoli passati, ma non all'età moderna. È singolare, no? Che il sindaco di una grande città europea dica questo. Probabilmente naturalmente si fa megafono di un sentire che è condiviso dai suoi cittadini. A volte però per uno scontentare, per questioni diplomatiche, per comunque insomma mi ha sorpreso abbastanza questa dichiarazione. Tra l'altro vedevo che l'Espresso, sul quale tu hai fatto l'articolo di cui parlavamo all'inizio, dedica la sua copertina con l'immagine, una serie di vescovi in preghiera, la santa evasione, i vescovi lanciano l'anatema contro chi non paga le tasse, ma i patrimoni della Chiesa vivono di agevolazioni ed esenzioni, siccome una polemica anche che c'è stata anche questa, no? Negli ultimi giorni, in agosto. Ma continuiamo con gli ascoltatori. All'800 24 0024 dalla provincia di Cremona c'è Annibale, un nome altisonante, Annibale. Senti, ma tu ti senti il carico di questo nome? Da quando eri bambino tu senti l'importanza? Sì. Il nome è molto importante. Hai fatto il condottiero anche tu, Annibale? No, ho fatto niente. Comunque, il nome c'è e ne hai fatto quello che hai voluto. Prego, Annibale. Allora, io volevo parlare della storia di Penati. Sì. Se fosse vero quello che c'è sul Corriere oggi, gli ex comunisti dovrebbero fare un esame di coscienza. Perché io adesso abito qui, ma sono di Milano, no? Ricordiamo che Penati è stato ex sindaco di Sesto San Giovanni ed ex presidente della provincia di Milano. Signor Violante, signor Borrelli, tutti addosso ai socialisti, no? Loro erano dei santi, i socialisti erano ladri. Io sapevo già che prendevano i soldi pure loro, no? Però a quello che hanno fatto i socialisti li hanno fatti fuori. Adesso loro minimo dovrebbero andare sottoterra, signor D'Alema, signor Occhetto, tutto addosso ai socialisti, no? Loro erano tutti santi. Si vedono Penati, le COP. Se tu vai in Romagna non muovi dito se non sei da quel partito lì. Capito cosa voglio dire? Sì, ho capito. Basta così. Grazie, molto ciao, sintetico. Ciao, grazie, ciao Annibale. Che ne pensi, Michele Ainis, continuando insomma un po' a riflettere sulla politica di ieri e di oggi, destra-sinistra? Ma credo che gli eventuali misfatti di Penati riguardano Penati e non riguardano D'Alema. La responsabilità penale e personale, questa è una regola sacrosanta. Dopodiché però, per chi fa politica vale il vecchio detto che la moglie di Cesare deve essere al di sopra dei sospetti, e qui abbiamo invece troppi politici che continuano insomma a stare in primo piano essendo al di sotto di ogni sospetto. C'è qualche affinità, io credo, tra i tempi che stiamo vivendo e Tangentopoli di 20 anni fa. Anche allora c'era una crisi economica forte, questa è ancora probabilmente più aspra, un discredito che circondava i vecchi partiti, quelli responsabili del consociativismo, della spesa pubblica debordante, eccetera, e una voglia di cambiare pagina. Io spero che questo accada, cioè che l'Italia riesca, perché ci sono tante energie che chiedono solo di essere messe a frutto, valorizzate, però dobbiamo vigilare, perché se diceva Aristotele, se una Costituzione si può migliorare significa che si può anche peggiorare. Non è detto che cacciando il prepotente diciamo di turno non ne arrivi uno peggiore. Quando i romani insomma uccisero Giulio Cesare per restaurare la Repubblica arrivò un imperatore. Anche quello che potrebbe succedere per esempio in Libia, no? Non si sa bene. Ho letto ieri il pezzo, non mi ricordo se era di Massimo Nava, sì, che faceva un'analisi del fatto che non necessariamente, no, quando ci sono queste cadute di tiranni poi, e lo faceva anche sempre sul Corriere, e ce l'ho qua, Cecilia Zecchinelli ha scritto un articolo interessante dal titolo "Se le primavere arabe tradiscono le donne", che è quello che succede il più delle volte in effetti, no? Partecipano le donne con grande coraggio, con grande passione a queste ribellioni, rivolte eccetera eccetera, poi una volta passato il tiranno la situazione loro diventa uguale se non peggiore, spesso e volentieri, no? Difficile a scardinare integralismo, tradizioni in questi paesi. E dice coraggiosamente la Zecchinelli, già in Italia dal dopoguerra non è stata raggiunta in modo completo la parità in Italia, figuriamoci poi in questi paesi. Ma darei la parola ad Anna Maria da Verona, sempre al numero verde 800 24 0024. Che ci dice Anna Maria? Buongiorno a voi. Buongiorno. Io sono sintonizzata sistematicamente proprio sulla vostra radio. Molto bene, Anna Maria. Sì. Ecco, e ascolto con grande interesse la rubrica delle 14 relativa allo sport e al calcio, non già per il gioco del tempo calcio, di sport, sì. Ma per quanto e per la valenza, la classe e l'educazione dell'esposizione del conduttore, tant'è vero che prendo gli appunti e dopo Garanzini, i suoi concetti addirittura mi vanno bene in mille altri campi. Ah, tu applichi quello che dice Garanzini sullo sport, sul calcio, però più perché si occupa più, sì, lo applichi ad altri ambiti della vita, questo è molto interessante. Come no? Allora, fammi un esempio. In tanta perfezione che mi spiace, sì. Quando e nonostante l'analisi perfetta, sì. Come si dice, di quando parlano e dicono quanto a loro valutazione il conduttore in intervista delle altre persone, sì. Quanto sia inconcepibile, impossibile per chi ha tanto denaro, sto parlando di Eto'o, che chi ne ha già tanto debba abbandonare una posizione, lì c'è la valutazione eccetera eccetera, per aggiungerne altro. Allora io dico, ma perché limitarsi a questa esclusiva valutazione con conseguente pensiero di identificare questo uomo come ingordigia e qui il denaro non basti mai, quando in realtà loro stessi dicono 3 anni dalla fine della carriera. Allora chi è che non mi dice, visto che non ho così pochi elementi, Anna Maria, perdonami, mi sto confondendo tutta, non ho capito, tu stai criticando Eto'o o stai criticando quelli che criticano Eto'o? Non mi è chiaro. Sto dicendo che l'impronta che danno ad Eto'o con pochi elementi verte unicamente sul fatto che dicono: Eto'o, com'è possibile che abbandoni quanto ha già raggiunto L'Inter, solo per aggiungere un po' di denaro, perché chi ne ha 10 poco conta se ne ha raggiunto. Ecco, invece 13. tu dici ha un obiettivo più nobile e che se ne va dall'Inter, va lanci vicino a Mosca. Allora ecco, perché escludere questo, che lui magari ha vita sportiva finita, abbia degli agganci o dei progetti o di qualche cosa dove quel denaro gli è indispensabile, gli necessiti e sacrifica, è vero, eccetera eccetera, è questo che viene escluso, per cui a un certo punto non soltanto per lui ma ognuno di noi viene valutato e considerato per ciò che la testa altrui vuole. Grazie Anna Maria, è tutto chiaro, devo dire. Allora faccio questa premessa per chi non conoscesse, diciamo, le ultime vicende riguardanti Samuel Eto'o, calciatore dell'Inter, ha mollato l'Inter per andare in una piccola parte diciamo della Russia, in una squadra che si chiama Anshi, non so chi ne ha mai sentito parlare, ma prenderà 20 milioni e mezzo all'anno, netti se non sbaglio, sì, netti all'anno per 3 anni. E avrà costantemente una scorta, perché credo di aver sentito che lì dove gioca la squadra insomma ci sia una situazione degradata, violenza, dovrà affrontare un lungo tunnel ogni volta per arrivare ad allenarsi in questa squadra, insomma, delle cose. Molti lo commiserano, altri dicono beh, in fondo per 20 milioni e mezzo l'anno, che già credo Eto'o ne abbia guadagnati, che penso che per 25 generazioni della sua famiglia e discendenti non avrebbero bisogno di lavorare, però Anna Maria dice ci deve essere magari anche qualche altra ragione, non è che per forza per i soldi uno va a fare in qualsiasi parte del mondo il calciatore. Non so cosa ne pensi Michele Ennis, ma lo sapremo tra pochissimo, perché adesso abbiamo la viabilità che è importante con questo controesodo che è in corso. 800 24 00 24. Non ci sono più le mezze stagioni. Bene, possiamo procedere. Sempre Michele Ainis, il mio opinionista estemporaneo di oggi, editorialista del Corriere della Sera, costituzionalista, ma diamo un po' di spazio anche alla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, al quale hanno partecipato con grande passione diversi facebookiani, donne e uomini, per esempio sulle affermazioni del senatore di questa settimana, che diceva la Padania è il futuro dell'Italia, vista questa crisi, e qualche, diciamo, epiteto che ho usato nei giorni scorsi verso Casini, verso Brunetta. Allora, cerco di andare velocemente. Franco dice, ci vede lungo il senatore, tutto quello che dice si avvera. Alberto dice, abito a Busto Arsizio, patria della Lega, e qui la gente non rivoterà più Lega, prevedo perdita di voti del Carroccio, ma tanti. Feresh scrive, ha dichiarato Bossi che l'Italia fallirà e la risposta migliore è la Padania, e se morrà anche il progetto Padania si inventerà pavidamente altri stati su cui attaccarsi, Bossilandia per esempio. Prima di mollare la nave affondante ci racconti come mai la sanità veneta, dice, gestita da 15 anni dalla Lega, è in deficit. E poi Elmo Cara Roberta, ci sarebbe molto da dire, ma preferisco chiederti: pensi che gli epiteti siano utili a unire le forze di chi ci governa per risolvere la difficile situazione in corso? E le affermazioni sulla Padania sono utili a ciò e condivisibili nel 150esimo dell'Unità d'Italia? E Francesca invece dice: cara Roberta, le ultime sortite di Bossi mi deprimono ulteriormente, non l'ho mai apprezzato come politico, non solo per le sue idee secessioniste. L'essere politico del senatore si fonda su una furbata, dice, che ormai sta mostrando la corda. E poi scrive moltissimo Francesca, ma devo essere sintetica. E Angelo dice: Roberta, con tutta la simpatia che ti voglio, ma davvero possono essere oggetto di approfondimento questi argomenti? Dice Angelo, un po' critico. Sonia: io non uso queste parole, si riferisce agli epiteti di Bossi, quindi chi mi rappresenta non dovrebbe usarle. La Padania non potrà mai esistere perché non possiamo abbandonare il Sud, ma dobbiamo aiutarlo a essere autosufficiente. Monica: Bossi manca di autorevolezza, è banalotto, menefreghista e anche un po' ipocrita. Corrado: piuttosto di vivere una futura Padania, emigro, dice. Poi invece c'è stata un'affermazione di Scilipoti questa settimana, l'onorevole Scilipoti, che ha detto: ma insomma, qual è il contributo della Montalcini con i suoi 101 anni, ma qual è il suo contributo alla politica? E ha aggiunto che invece Scilipoti, dice, sicuramente nel dibattito politico ha contribuito a creare qualcosa. Allora gli ascoltatori, per esempio Luigi ha scritto: Scilipoti ha sicuramente riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica il grande tema dell'agopuntura. Alberto: Scilipoti e in company sono responsabili della continuazione di questo governo che tramite loro ha una maggioranza parlamentare che però, non essendo coesa politicamente, ha lasciato ferma l'Italia per 8 mesi, portandoci ancora di più sull'orlo del baratro. Sempre su Scilipoti c'è Massimo che dice: ha contribuito a bile, tanta bile. Roberta invece scrive: sinceramente penso che un pezzo consistente di italiani e italiane sia in overdose da quintalate di parole pronunciate giusto per sopperire alla carenza di fatti. Leggiamone ancora qualcuno. Boaz scrive: non posso credere, Scilipoto il nulla in persona, forse l'emblema di noi italiani, siamo davvero mediocri, irrilevanti come Scilipoti? Enrica dice: secondo me l'unica cosa giusta che ha detto è che davvero che cosa ha a che fare la benemerita Montalcini con la politica. Lorenzo dice: Scilipoti permette all'italiano medio e a me in primis di aumentare per confronto la propria autostima. Sonia dice: crea confusione. Monica dice: un attimo di silenzio per la morte dell'ultimo neurone di Scilipoti. Piuttosto critici, diciamo, i facebookiani. Ma andiamo invece adesso al nostro appuntamento galoppando verso il tempo corre, con la satira di Spinoza.it alias Stefano Andreoli. Caro Stefano, una fotografia sintetica, quindi ci dirai di questa settimana, caro Stefano, da quant'è buongiorno, che non ci sentiamo? Buongiorno. Sono qui tra l'altro con Alessandro Bonino, che è il curatore con me di Spinoza, che saluta anche se sta facendosi i fatti suoi. Comunque è qui accanto a me e ti saluta e ringrazia anche lui per l'ospitalità. Ho spiegato che se facciamo con la mano non si vede, ma ce lo dici tu e ci fidiamo. Sì. Un po' cosa è successo, inutile fare demagogia, ma lo sciopero dei calciatori è la notizia, soprattutto in questo weekend. I calciatori italiani scioperano, l'avevano già fatto l'anno scorso durante i mondiali, non è stata una scelta ottima, e quindi abbiamo rimosso le conseguenze. I giocatori hanno fatto muro, pare che alcuni di loro siano pronti a salire sul tetto del billionaire, perché praticamente è un po' una forma di protesta abbastanza. E bere qualcosa, anche visto che ci sono, sì, il locale di Briatore, sì. Altra notizia: Gheddafi, il consiglio transitorio, dichiara che ci vorranno 10 anni per ricostruire la Libia. Ah, la fanno fare in Italia, non sapevo, perché chiaramente i tempi della ricostruzione saranno parecchio lunghi. Rapiti 4 giornalisti italiani, poi fortunatamente rilasciati. I sequestratori li preferiscono perché sono già imbavagliati, quindi non hanno bisogno di sprecare molta fatica. Parliamo anche di crisi, chiaramente non possiamo esimerci dal trattare questo argomento. A Napoli la crisi dà effetti inaspettati. A Napoli c'è gente che riporta in casa i sacchetti della spazzatura, quindi vista la possiamo civiltà, anche vedere, possiamo anche vedere qualche lato positivo, vedere il cassonetto mezzo pieno. Tremonti sulla crisi ha dichiarato: stiamo andando dove ci ha detto l'Europa, ma non si può dire davanti a tutti, quindi noi comunque stiamo andando lì, per cui importante che sia un buon saperlo. Posto, sì. E chiuderei, per chiudere questa estate piena di notizie, con una notizia imprescindibile sul nostro caro premier Berlusconi. Devo ha dichiarato di essere dimagrito 4 kg. Con le tisane. Berlusconi dimagrisce 4 kg e sai come ha fatto? Si è confessato. Molto bene, Stefano. Ciao. Stefano, no, ti vorrei censurare, ma dobbiamo dire una cosa: che Stefano, lui che fa tanto la morale agli altri, lui è giù da carota perché ha deciso di lasciarci per, diciamo, verso altri lidi navigare. Non, è vero, non, è ancora, non c'è ancora nulla di sicuro, quindi non possiamo dire. Speriamo di risentirci presto. Speriamo di risentirci, fammi sapere. Chi però, vuole, chi vuole stasera venire, tra l'altro, a Pesaro, alla festa nazionale del PD, facciamo una serata spinoziana alle 23. Come gruppo spalla abbiamo Bersani e De Gregori, poi chiaramente. Molto bene, ma non fare l'ambiguo anche tu che mi dici sì, ci sono, no, ti devo abbandonare, ci separiamo, il divorzio in vista. Fammi sapere. Le cose ne parleremo a casa. Molto bene. E per caso, i panni sporchi. Ciao, caro Stefano, salutaci anche Alessandro. Un bacio, ciao. E adesso invece andrei, mentre vi ricordo che potete riascoltare poi la trasmissione su radio24.it o sulla pagina Facebook Non ci sono più le mezze stagioni, Roberto Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni, andrei invece anche al nostro altro appuntamento che non può mai mancare con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale chiedo, cara Valeria, di illuminarci sul termine demagogia, visto che si è usato sull'antipolitica, sui calciatori pieni di privilegi e viziati. Che dire di demagogia, cara Valeria? Che dire? Beh, intanto che è una parola antichissima, viene dalla lingua greca, è un composto di demos, popolo, e ago, che significava condurre, trascinare, quindi ecco che significava in origine l'arte di guidare il popolo. E poi dopo questa parola, che originariamente non aveva sfumature negative, è passata a indicare invece qualcosa che ancora oggi intendiamo bene, cioè quel tipo di politica che tende a ottenere il consenso delle masse lusingando, diciamo così, le loro aspirazioni con false promesse. Ora, sia demagogia che tutte le parole derivate, demagogo, demagogico, non ci sono arrivate direttamente come parole dalla lingua greca, ma attraverso il francese, come molte delle parole della nostra politica alla fine del Settecento. Che cosa dire? Oggi l'abbiamo sentita nominare tante volte la parola demagogia, la leggiamo continuamente nei giornali, la parola è più vitale che mai. Almeno un aspetto positivo c'è: una parola usata da Tucidide, da Platone, da Aristotele, continua a vagare nell'etere, nella rete sulle nostre bocche a distanza di millenni. Lunga vita quindi a demagogia, naturalmente anche Valeria Della Valle. Adesso, in questi 33 secondi che ci rimangono, Michele Ainis, quanto ti angoscia questo sciopero dei calciatori? Facci sentire proprio tutta la tua Basta, non ti ho dormito bene, penso. Hai dormito bene. La prossima. No, in realtà stanno facendo di tutto per guadagnarsi antipatie. C'era stata anche una polemica sul contributo di solidarietà riguardo i calciatori, non li riguarda. Poverelli. Ora, però, insomma. Speriamo che risolvano i loro guai, che dici? Sì, insomma, io faccio questa osservazione, però vengono pagati troppo, perché è vero che anche un pilota di Formula 1 guadagna un sacco di soldi, però quello rischia la pelle, loro rischiano di sbucciarsi le ginocchia. Sì, anche sbucciarsi le ginocchia è un bel guaio. Grazie Michele Ainis. Ciao Michele, a presto. Ciao a Michele. A presto a tutti voi. E da Roberto Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.